America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Let me be very clear. I did not collude with Russia, nor do I know of anyone else in the campaign who did so. I had no improper contacts. I have not relied on Russian funds for my businesses. Jared Kushner, il genero del presidente Donald Trump, ieri ha partecipato a un'audizione sul Russiagate e soprattutto sull'incontro con l'ormai famosissima avvocatessa russa che aveva offerto un deal, un accordo. Noi vi daremo informazioni possibilmente criminose contro Hillary Clinton perché il presidente Vladimir Putin vuole che vinca Donald Trump. E la risposta di Donald Jr., il figlio di Donald Trump, del presidente, fu: fantastica idea, ma che bellissima idea. Ecco, quando poi l'incontro ci fu, c'era anche Jared Kushner. Kushner, devo dire, è stato subito molto diretto. Ha detto: prima di tutto non ho avuto alcuna collusione con la Russia. Lo avete sentito nella sua dichiarazione che ha fatto ai giornalisti subito fuori dalla Casa Bianca, immediatamente dopo l'incontro. Non solo, ma ha detto che intanto è arrivato in ritardo a questo incontro, ma che poi era talmente noioso che ha inviato un messaggino alla sua segretaria per chiedergli: per favore, liberami, aiutami in qualche modo, chiamami, di che un incontro urgentissimo. E difatti, dopo neanche 10 minuti, Jared Kushner se ne va. Ecco, Kushner ha anche negato di sapere quello che era il contenuto delle email, dello scambio di email fra Donald Trump Jr. e l'avvocatessa russa, appunto queste email in cui lei proponeva delle informazioni possibilmente imbarazzanti per Hillary Clinton e il figlio di Trump accettava con grande entusiasmo. Ed effettivamente è possibile che sia così, è possibile che Kushner ci sia andato semplicemente perché suo cognato gliel'ha chiesto. Ecco, detto questo, il contorno dei rapporti di Kushner con la Russia è piuttosto interessante e Kushner, devo dire, non si è tirato indietro. Ha detto: ma sì, io ritenevo che una delle mie missioni fosse quella di cominciare a stabilire dei rapporti di comunicazione privilegiata con la Russia, con Mosca, con Vladimir Putin, e dunque ho cercato di agire di conseguenza. Ha detto che i contatti con l'ambasciatore russo a Washington non sono stati segreti, non ho mai avuto, ha detto, alcun legame con alcun governo straniero. Ecco, detto questo, ci sono alcune ombre. Kushner, per esempio, si è giustificato dell'incontro che ha avuto con un banchiere russo che era nella lista nera, tra l'altro, di coloro colpiti dalle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, dicendo che di nuovo voleva cercare di capire la psicologia del presidente Putin, voleva cercare di capire come Putin vedesse l'amministrazione americana. Ha detto: ogni segnale in questa direzione è un segnale che per noi può essere molto utile e ritenevamo che potesse essere molto importante. Ecco, dietro questa facciata, ci sono alcune cose che potrebbero essere imbarazzanti per Kushner. Tra l'altro, vorrei darvi una piccola presa diretta, credo di non avervela mai raccontata, ma un paio di settimane fa c'è stato un party in casa di una socialite, diciamo di una celebrità sociale americana, dove c'erano anche appunto Jared Kushner e la moglie Ivanka Trump. Io per combinazione ero stato invitato a questo party, ho avuto occasione di conoscerli entrambi e devo dire la cosa che mi ha colpito di più è quanto giovane sembri Kushner. Sembra davvero un ragazzino, sembra davvero uno che ha poca esperienza, eppure si muove, devo dire, nei meandri della politica americana e dei corridoi della Casa Bianca con straordinaria disinvoltura, proprio come ha fatto ieri quando è apparso con grande sicurezza davanti ai giornalisti dopo l'incontro addirittura con la commissione intelligence del Senato. Ma vi dicevo, qual è il problema che potrebbe avere Kushner? Sentiamo. 666 Fifth Avenue, a prime piece of New York City's skyline. Jared Kushner decided to make it his trophy in 2007. To get the seller's attention, Kushner offered a big price. $1.8 billion. Ecco, è il business. 666 Fifth Avenue, un palazzo che è un grattacielo a New York, dove una volta c'era anche l'Alitalia, un palazzo argentato con un numero molto particolare sulla quinta strada fra la 52 e la 53, e Kushner decide di comprarlo per fare il grande passo verso Manhattan dal punto di vista immobiliare, lo pagò 1,8 miliardi di dollari. Oggi questo palazzo vale circa la metà. E allora che cosa è successo? Che aveva bisogno di aiuti, di finanziamenti per poter coprire anche le esposizioni bancarie, ed è su questo che l'inchiesta del procuratore Mueller si sta anche dirigendo, cioè sugli affari privati della famiglia Trump, perché il sospetto è che possano esserci stati degli aiuti in arrivo, per esempio, da qualcuno simile al banchiere russo che Kushner ha ammesso di aver incontrato, ma ha detto di averlo incontrato solo per capire quali fossero le reazioni di Putin, appunto, alla vittoria di Donald Trump. E posso anticiparvi che ci sono delle rivelazioni in arrivo, delle rivelazioni proprio legate al progetto 666 Fifth Avenue. Già qui ad America 24 vi ho raccontato la storia del rapporto di Kushner con la famiglia Mack, che è un'importante famiglia immobiliare newyorkese, di come a un certo punto Kushner abbia cercato di usare il New York Observer, che è un importante settimanale newyorkese, per parlare male, per diffamare questo suo ex amico che gli aveva dato un prestito, ma che poi non voleva, anche giustamente, credo dal suo punto di vista, rinegoziare questo prestito. Insomma, la notizia che vi sto dando è che potrebbero esserci degli sviluppi ulteriori al di là di quello che sta capitando con il Russiagate. President Trump just has a new tweet out right now. Let me read it for you. Drain the swamp should be changed to drain the sewer. It's actually much worse than anyone thought, and it begins with the fake news. Ecco, avete sentito, in tutto questo il presidente americano non è stato fermo. Ha ribadito ieri le sue accuse contro l'establishment, contro i media, e ha modificato, devo dire, il suo slogan. È sempre straordinariamente creativo Donald Trump. Ha dato una smitragliata di Twitter ieri che da tempo non si vedeva, e ha cambiato leggermente il suo slogan, che era bonifica la palude, riferendosi a Washington, riferendosi alla politica vecchio stile. Bonifica la palude, dice, dovrebbe essere cambiato in bonifica la fogna, perché dice la situazione è in realtà molto peggio di quello che potessimo pensare, a cominciare dalle fake news. E poi un altro attacco, questa volta sempre a Jeff Sessions, il suo ministro per la giustizia. Devo dire, ma perché non lo licenzia? Perché deve fare delle esternazioni dirette su Twitter? E nel suo tweet dice, perché le commissioni e gli inquirenti, ovviamente il problematico segretario alla giustizia, Jeff Sessions, segretario alla giustizia, è il suo, lo ha scelto lui, lo ha nominato lui. Cioè, perché costoro non stanno guardando ai crimini e alle relazioni con la Russia della corrotta Clinton? Signor Presidente Trump, la risposta mi sembra semplice. La signora Clinton ha perso, ma ha subito un'inchiesta ferocissima sulla questione delle email, tant'è vero che molti dicono che proprio su quel fatto, su quello scivolone, sulla denuncia di Comey di altre 30.000 email, che ha perso poi le elezioni. Posso garantire al nostro pubblico che se Hillary si fosse trovata oggi al posto di Donald Trump, anche lei sarebbe stata sicuramente sottoposta a un fuoco di fila di inchieste. Ma se dovesse andar via Session, Trump chi metterà? L'indiscrezione del New York Post è Rudolph Giuliani, l'ex sindaco di New York. E sentiamo invece cosa fanno i democratici. Well, it is in part our fault. When you lose an election, you look in the mirror and say, what did we do wrong? And the number one thing that we did wrong is we didn't tell people what we stood for, even today. Ecco, i democratici ieri hanno avviato un programma per il 2018, per lo scontro elettorale 2018, e dunque uno scontro per il rinnovo di Camera e Senato. E Schumer qui dice, ve lo ricordo, è il capo della minoranza al Senato democratica, quindi un democratico di New York. La sconfitta nelle presidenziali è in parte colpa nostra, ha ammesso Schumer. Dobbiamo guardarci allo specchio, riconoscere i nostri errori. Quello principale è stato sicuramente di non dire in modo chiaro agli americani quali erano le nostre priorità, per che cosa avremmo lottato. D'ora in avanti non succederà più. E in effetti c'è stata una lista ribadita anche da Nancy Pelosi, presidente della minoranza democratica alla Camera, e evocando il New Deal hanno rispolverato tutti insieme i democratici una serie di programmi. Questi sono i punti principali. Sgravi fiscali pensati per alimentare le assunzioni, quindi si dà un incentivo se assumi. Progetti infrastrutturali multimiliardari, voleva farli anche Donald Trump, però finora non è riuscito a realizzarli. Maternità retribuita, questo devo dire l'ha proposto lo stesso Trump nella finanziaria per l'anno fiscale 2018, e poi una proposta per la creazione di un'agenzia indipendente per supervisionare i prezzi dei medicinali venduti con prescrizione medica, e la Costituzione è un organismo che difenda la competizione monitorando le fusioni aziendali. Insomma, i democratici cercano di darsi da fare, però resta il fatto che per ora non c'è un leader carismatico apparente. Il più chiacchierato in questo momento è Andrew Cuomo, il figlio dell'ex governatore di New York, Cuomo a sua volta governatore dello Stato, che è proprio in scadenza nel 2018 e dunque avrebbe poi 2 anni per potersi preparare alla campagna elettorale. Ma si parla anche proprio di Schumer, perché no? Perché Schumer non dovrebbe far parte di una corsa elettorale? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, direi continuiamo con la playlist dedicata all'estate, oggi dei Beach Boys, Beaches in the Mind. We've got beaches in mind. Man, it's been too much time. Woke me up before dawn. Wish I could sleep some more so I could carry on with the dream I've been meaning to make come true. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!